Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi e buon pomeriggio. Su Radio 24 si è conclusa con uno sgombero l'occupazione del rettorato dell'Università di Atene. Gli anarchici rimproverano al governo troppa morbidezza con l'Europa, ma più che gli anarchici sono i soldi a preoccupare il premier Tsipras. Il tempo passa e il denaro scarseggia. Se Atene non riuscirà a trovare un'intesa con i partner dell'Eurozona il 24 aprile, potrebbe non essere in grado di onorare in maggio i debiti con il Fondo Monetario ed essere spinta a uscire dall'euro. I tempi non sono necessariamente così brevi. Il ministro delle finanze greco Varoufakis ha già spostato a giugno il termine entro il quale trovare un'intesa con l'Europa. Ma la sintesi è questa. Cercando di mettere un punto fermo alla discussione, il commissario europeo agli affari economici Moscovici ha riaffermato oggi che non si sta preparando il terreno per un'uscita della Grecia dall'eurozona. Ma non è stato abbastanza convincente se, come scrive il quotidiano ellenico Kathimerini, le banche centrali di Bulgaria, Romania, Cipro, Macedonia, Serbia e Turchia stanno cercando di cancellare ogni forma di esposizione al debito della Grecia. Per fare il punto sulle riforme della Grecia si riunirà nel fine settimana il Brussels Group, quindi la ex troica formata da BCE, FMI e Commissione Europea, più lo European Stability Mechanism. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'inflazione su base annua nel mese di marzo nell'eurozona è pari al meno 0,1%, sempre negativa ma in leggero incremento rispetto allo 0,3% registrato a febbraio. Nel marzo del 2014 il tasso di inflazione era allo 0,5%. Queste le stime di Eurostat, secondo quale tasso di inflazione in Italia pari a 0, mentre due giorni fa l'Istat aveva comunicato un tasso di -0,1%. I limiti dell'operazione Triton li vediamo ed è chiaro che in assenza di un governo in Libia i rischi per il terrorismo, per ondate migratorie crescono, ma tra i 28 non c'è ancora la volontà collettiva di un'azione marittima più forte. Così queste almeno le indicazioni di alte fonti diplomatiche europee in vista del Consiglio Esteri che lunedì avrà in agenda proprio la Libia. L'Unione Europea è la più grande superpotenza economica del nostro tempo e non è possibile che destini solo 3 milioni di euro al mese all'emergenza migranti, cifra veramente imbarazzante rispetto al budget europeo. Lo ha detto questa mattina e ribadito il ministro degli esteri Gentiloni al Campidoglio in occasione dei 40 anni di Amnesty International. Batteri Oxylella in Francia, una pianta infetta importata dal Sud America. L'Unione Europea è in attesa della notifica ufficiale, ma il Ministero dell'Agricoltura francese ha intanto trasmesso la notizia che una pianta infetta dal batterio Xylella è stata individuata in un mercato alle porte di Parigi. A pochi giorni dalla decisione della Francia di imporre l'embargo su 102 specie vegetali pugliesi per impedire il contagio, la pianta di caffè malata è arrivata a Parigi dal Sud America, attraverso l'Olanda, seguendo la stessa via commerciale che ha portato il batterio in Italia e che ora sta infestando gli ulivi del Salento. Si riaccendono le polemiche dunque sull'utilità di chiudere le frontiere tra paesi comunitari, visto che Xylella continua a diffondersi importata da paesi fuori dall'Unione. Da Bruxelles arriveranno a breve misure più severe, spiega Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea per tematiche di salute e ambiente. C'era stata la richiesta da parte di vari stati membri di avere delle misure più stringenti di controlli dell'importazione di piante da paesi terzi. Queste misure sono adesso allo studio e verranno probabilmente esaminate da un comitato permanente il 27 e 28 aprile. Per Bruxelles, oltre al controllo sulle importazioni, è anche essenziale definire un piano europeo di cura e salvaguardia dei territori e delle culture per arginare il contagio. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto alle 14:05 minuti 48 secondi. Vi saluta qui Daniele Biacchiesi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.